mano, mamma, mi chiedo col cuore e cerco le risposte nei petali di un fiore. Li sfoglio uno ad uno e loro leggeri se ne volano via insieme ai pensieri. Mamma, non mamma, il dubbio vuoi o non vuoi? E se lei mamma adesso o se mammerà poi? Da sempre la risposta per circostanze strane si cela dietro all'ultimo petalo che rimane. Petali sparsi sul prato, petali bianchi portati dal vento, petali rifugio e speranza delle emozioni di questo momento. Mamma, non mamma, mi chiedo già da prima, e qui la soluzione pian piano s'avvicina. Petalo poi un altro e poi un altro ancora, nel cielo che al tramonto di rosso si colora. Mamma, non mamma, ma se poi mi dirai che nel tempo a venire lei non mamerà mai, magari questo aspetto del problema non esiste, però se poi esistesse diventerei un po' triste. Petali sparsi sul prato, petali bianchi portati dal vento, petali rifugio e speranza delle emozioni di questo momento. Mamma, non mamma, e alla fine non so come, sto quasi per scoprirlo, ma cambio decisione. Mio caro fiore, resto con i dubbi miei, ti lascio e quasi quasi vado a chiederlo direttamente a lei. Petali sparsi sul prato, petali bianchi portati dal vento, petali rifugio e speranza delle emozioni di questo momento. Petali sparsi sul prato, petali bianchi portati dal vento, petali rifugio e speranza delle emozioni di questo momento.